Welcome to the Yene English course. English, no problem with Mr. Brown. Nel avete tuo curriculum sentito? Come metteresti? Inglese? L'inglese conoscenza? Lo sai che la mia è... No, tu buona. Ma figuriamoci. No, buona. Ma lo sa... Io metterei zero. No, no, quella proprio, diciamo, del supermercato a New York, se dovessi sostenere un colloquio di lavoro in inglese non sarei... Neanch'io. No, vabbè. Lo dico, lo ammetto. Ma qualche... noi saremo qua in Italia, facciamo altro. Facciamo insomma. Altro. Nel frattempo impariamo bene l'inglese. Sì. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Mi vuoi fare la multa? Ormai tutto è una multa, una tassa occulta. C'è il divieto di sosta, ma il divieto cos'è? Ce l'hai nella testa, è un blocco mentale. Ti devi sbloccare. Basta pagare, eseguire un bidino. Allora, il grande tema del giorno è... Chi canta questa canzone? Icono Leonardo Veronesi. Va bene. Perché? Ne prendo atto. Così. Leonardo Veronesi, un bellissimo nome, tra l'altro. Il nome senz'altro, a conoscerlo sarebbe anche lo invitiamo utile. Qua? Benissimo. E gli chiediamo quante multe ha preso nella sua vita, visto che lui ne decanta così tanto nella sua canzone. Multa sì, multa no, quelle sono in italiano, non sono in inglese, sono chiarissime. C'è chi pensa che sia giusto farla e chi invece insiste e si oppone. Parliamo naturalmente del Ministero dei Trasporti da un lato e dei comuni dall'altro. Perché? Lo ricorderete, ce ne siamo occupati a cuore denari. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti qualche settimana fa aveva affermato che un automobilista, quando lascia la sua macchina in un'area di parcheggio a pagamento, insomma le strisce blu per intenderci, oltre l'orario pagato, non dovrebbe incorrere in una multa per divieto di sosta. Come sempre sarà se non paga proprio nulla, ma con una sanzione molto minore dovrà saldare il dovuto per l'orario scoperto e niente più. Insomma, non si dovrebbe trattare proprio come un divieto di sosta, ma come una sosta più lunga del previsto. I comuni però naturalmente non sono d'accordo, anche perché immagino vedono sfumare un'entrata molto sostanziosa per le loro casse. A quanto pare gli italiani non sono molto precisi con gli orari dei parcheggi. Sì. Deborah? Cosa vuoi? No, cosa niente. C'è? Io non voglio dire, ma quando si esce con Deborah poi dice più o meno dai saremmo arrivate qui. Qual è l'ultima multa che hai preso? Devo proprio confessarlo, ma non ne vado tanto fiera, perché generalmente non le prendo e quella lì mi è proprio bruciata. Mi hanno pizzicato davanti alla palestra in divieto di sosta, mi ero fermata 10 minuti perché dovevo portare un documento. E quindi zac, subito 28 euro erotti perché l'ho messa lì nelle strisce blu senza il tagliandino. Però l'ho pagata immediatamente e quindi ho avuto lo sconto del 30%, e quindi è anche un tema che affronteremo questa mattina. Ma non sarò solo io. Sì, perché anch'io ho preso una multa. Bene. E sono... Guarda che confessa subito, non lo lascia dire realtà, a me. Sì, in realtà. Sentiamo. Io ho accusato ingiustamente le mie figlie. Brava. Perché il portinaio, appena sono scesa, ha detto: Nico, sai, con quell'aria, signora, l'hai presa Carbone, di nuovo tu. Invece io ho aperto e ho letto divieto di sosta durante nella notte la pulizia, sai che ci sono sempre la pulizia delle strade, e mi sono imbufalita. Ho telefonato a una delle due figlie e ti devo dire che non raccontiamo com'è finita, perché è finita in una maniera che mannaggia, ti è andata pure bene, però piove sempre sul bagnato. Sveleremo dopo come è finita l'avventura di Nicoletta. La mia è molto chiara, l'ho pagata immediatamente, scontata. Però chiediamo ai nostri ascoltatori: 800 24 00 24, siete passati con il giallo, con il rosso fresco, come lo chiama il nostro ospite che tra poco sentiremo? Avete subito un'ingiustizia e poi vi siete fatti annullare la sanzione, o siete andati a pregare al comando dei vigili urbani perché avevate fatto i furbetti del quartierino? Scrivetecelo anche in un sms al 349-238-6666, oppure se volete utilizzate Facebook o Twitter. Ma lo salutiamo subito il nostro ospite, Silvio Scotti, esperto per Il Sole 24 Ore di codice della strada, ma ha fatto tante altre cose nella sua vita. Intanto buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. e con molti altri esperti ha collaborato alla redazione di questo nuovo dizionario della vita pratica che sarà in edicola domani con Il Sole 24 Ore, ma noi oggi ve lo anticipiamo, quindi pronti ad andare in edicola domattina. Si intitola proprio La tua auto, come gestire obblighi, multe ed assicurazioni. Noi abbiamo privilegiato per questa puntata, visto che recentemente è toccata ad entrambe, per questa puntata di Cuore e Denari appunto abbiamo privilegiato la lettera M di multe. Eccoci qua, Scotti, allora abbiamo un po' di cose da raccontare. Che cosa facciamo con queste strisce blu? Come è andata a finire? Posso sostare per 3 ore anche se ne ho pagata solo una, compensando magari poi in un secondo momento, oppure se arriva l'ausiliario del traffico vengo multata? Beh, dunque direi che la prassi è quella normale, cioè nel senso che i comuni non si sono adeguati al parere del Ministero, anche perché, come abbiamo visto nella scorsa puntata, ci sono diversi dubbi. Abbiamo pubblicato la situazione, l'abbiamo cristallizzata io e un collega, il dottor Carola, sul Quotidiano del Diritto. Lui ha scritto un parere del perché secondo lui non si dovrebbe applicare la sanzione, io ho scritto il parere contrario e abbiamo cristallizzato la situazione. All'attualità si attende, e pare che la soluzione sarà in questo senso, una circolare vera e propria del Ministero che chiarirà la situazione. La circolare sarà più vincolante rispetto al parere, immagino. Sì, sarà più vincolante, però ripeto, dovrà soprattutto superare la Corte dei Conti che in una sentenza che avevamo citato la volta scorsa, nel numero 888 del 2012, e sto parlando della sezione del Lazio, ha condannato una società concessionaria del parcheggio proprio perché non applicava le sanzioni in questo caso, ma faceva pagare solo la differenza. Faceva compensare. Esatto, quindi si tratta di fare chiarezza proprio a livello generale. Allora, 800 24 00 24, messaggio rivolto ai nostri ascoltatori. Come la pensa il vostro sindaco? Siete stati pizzicati oltre l'orario di sosta e avete contestato la multa? Silvio Scotti è a vostra disposizione anche per tutti gli altri dubbi relativi alle vostre o alle nostre multe. Il postino ha suonato mezza volta, è certo che è una multa, vai a vedere e la multa è nascosta dietro una carta da zucchero. Che tu dici? Beh, Ministero degli Interni, perché te la può mannà chiunque, Ministero degli Interni, il Ministero degli Esterni, la Forestale, i Carabinieri, la Polizia Stradale, chiunque te può mannà una multa, chiunque. Io ho visto padri di famiglia che erano delle rocce, sono tornati a casa, la multa, è arrivata la multa, uomini in ginocchio, la multa, che... ma che è successo, la multa? Ma la multa con lo sconto trae la sua origine d'essere dall'assunto che considera gli automobilisti calcolatori e utilitaristi. Dal punto di vista economico conviene, ma noi umani siamo abbastanza complicati, Deborah, e siamo soliti rimandare. Ad esempio, ci mettiamo a dieta sempre il lunedì, ma quello della settimana dopo. Senza contare che siamo anche conformisti, ci uniformiamo al gruppo, il popolo di chi la multa la prende e la strappa o la dimentica è molto numeroso. Quindi, se è vero che lo sconto alletta, bisogna vedere nella pratica chi ne approfitta. Voi che cosa avete fatto? Avete colto al volo questa opportunità o avete aspettato e avete perso quindi l'occasione? Rispondetemi, perché quello che succede per le multe spesso succede anche per altre cose della vita, altri appuntamenti, altre scadenze. Anche di questo parleremo col professor Cavedini, che è psichiatra e professore alla scuola di psichiatria all'Università di Firenze, che ci raggiungerà a partire dalle 11:40 e che quindi, sbirciando anche la nostra trasformazione da homus bipede in homus al volante, ci racconterà molto di noi. 800 24 00 24, se quindi volete affrontare la situazione multe, anche il vostro comportamento al volante da un'altra ottica. Vigile, ancora un'altra multa, no, non vede, ne ho già prese 6, mi vuole rovinare lei. Mi è capitato proprio ieri pomeriggio in giro per Milano con una mia amica. Io le dicevo: guarda, c'è posto lì, guarda, c'è posto là. No, grazie, già questo mese a Pisa Pia ho regalato più di 200 euro. Per cui attenzione anche a dove si parcheggia. Però Silvio Scotti, come facciamo a capire come si comporta il nostro comune in materia di strisce blu? Poi le leggerò tanto tutti i messaggi che ci sono arrivati da parte dei nostri ascoltatori su questo argomento, perché vedo che si sta scatenando un grande dibattito soprattutto su una questione di civiltà più che sulle multe. Sì. Scotti. C'è un ascoltatore che ci bacchetta, dottor Scotti. Bene, ascolteremo. Magnifico. Allora, innanzitutto è chiaro che ogni comune ha la facoltà di dare determinate indicazioni per quanto riguarda le strisce blu e i parcheggi regolamentati. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi ho notato che in realtà si continua a contestare la violazione, che ricordo ammonta a 25 euro e di conseguenza non è poi così a buon mercato. Si può provare ad informarsi presso la polizia locale e capire per ogni singolo comune qual è il comportamento, tenuto conto che però nella stragrande maggioranza dei casi, ripeto, l'atteggiamento è di tipo rigoristico. Ecco, però questo non significa che uno poi si vada ad informare in comune qualora non sia di tipo rigoristico, si va al parcheggio blu, si paga per un'ora e ci si resta per 8 ore, perché anche lì poi non è che sia un atteggiamento del tutto corretto, anche se poi il comune abbassasse gli occhi. Scotti. Certamente, infatti bisogna sempre ribadire che qua si parla da un punto di vista legale, cioè delle conseguenze, però è chiaro che a livello contrattuale il pagamento del periodo per cui si sosta è sempre comunque dovuto. Anche perché se capitasse questo, come giustamente segnala un'ascoltatrice, Masha dice, sarà la fine delle concessionarie se basta pagare un'ora per poi stare parcheggiati tutto il giorno. Ma Scotti, se è permesso compensare il tempo di sosta superiore a quello pagato, come funziona questo pagamento aggiuntivo? Mi viene notificato a casa sul parabrezza, oppure devo pagare ad una certa scadenza, oppure devo farlo prima di portar via la macchina dal parcheggio, di condurla fuori? Ecco, il problema è proprio questo, senso che laddove vi sono dei parcheggi liberi, no, è chiaro che diventa molto difficoltoso il controllo, cioè laddove non siano dei parcheggi recintati e muniti di sbarra, diventa difficoltoso il controllo. Secondariamente diventa difficoltosissimo il recupero, perché bisogna affidarsi ai normali rimedi civilistici, quindi mandare una raccomandata all'intestatario della carta di circolazione del veicolo e richiedere il pagamento di un dovuto che nella stragrande maggioranza dei casi sarà inferiore addirittura al costo della raccomandata. Ah, ecco. Quindi ecco che si crea veramente un serio problema. Anche per questo il codice, ripeto, a mio avviso prevedeva questo tipo di regolamentazione, cioè quindi la sanzione, perché rappresentava un deterrente molto più forte rispetto invece alla semplice corresponsione del dovuto. Molto bene. Andrei a Bergamo, ci aspetta Federico, e poi nella provincia di Pisa con Davide. Federico, buongiorno. Buongiorno a voi e innanzitutto grazie per questa opportunità e tanti complimenti, perché la vostra voce, oltre a dire cose importanti, ormai è un suono meraviglioso che accompagna le mie mattine. Federico, lei è stato venga qua. Adottato in questo preciso istante dalle due invitiamolo e ce lo portiamo a casa. Direi, guardi, una bella botta di autostima mattiniera fa sempre bene. Intanto però non pensi che saremmo tolleranti se ci racconterà di qualche bravata con l'auto? No, anzi, volevo fare una piccola premessa. Innanzitutto credo che l'argomento, come tutti gli altri che trattate, non sia per i furbi, ma per le persone che invece, diciamo, si comportano in maniera corretta. Detto questo, il parcheggio in Italia è una follia, perché hai la possibilità di non, prenotare, prepagare più di 2 ore. Spesso non hai la moneta con te, perché comunque vuol dire non è che uno obbligatoriamente deve portarsi moneta, e non hai la possibilità di accedere a forme diverse per poter pagare. Sei costretto ovviamente ad essere impegnato in qualsiasi tipo di attività, potrebbe essere una visita specialistica, un appuntamento, un qualsiasi cosa, e non puoi a un certo punto piantarli tutto, perché devi correre e pagare restante tempo di quel e quindi bisogno. Siamo costretti a pagare di più, anche se magari siamo convinti che più di un'ora, più di quel tempo non basta. Sul tema delle monetine, Federico, magari se sappiamo che andiamo in un posto dove dovremo parcheggiare a pagamento, portiamocele dietro. Questo è vero, però insomma, voglio dire, è un po' una limitazione. Ma poi la cosa assurda è che per 20 minuti, mi è capitato l'altro giorno, 40 euro di multa, mi sembra francamente una follia, neanche parcheggiarsi in centro. Adesso non mi ricordo chi sia, ma il sindaco di Bergamo mi pare particolarmente rigido. Come mai 40, tra l'altro, Federico, se la sanzione è inferiore? Perché poi io mi dimentico dei 5 giorni. Ecco, è proprio quello che dicevamo, perché noi siamo un po' strani, vero? Cioè siamo complicati e rimandiamo. Grazie molte per la sua testimonianza. Sentiamo se Scotti la vuole commentare. Ma direi di sì, non mi torna la cifra dei 40 euro, perché a mio avviso quello che avrebbero dovuto applicare è una somma di 25 euro che scontata sarebbe stata di 17,50 euro. Io farei una verifica se fossi nei panni dell'ascoltatore, perché insomma la differenza è sensibile. No, mi scusi una cosa, come sarebbe 25 su 17? Io per averla tenuta parcheggiata nel parcheggio blu e non aver pagato il tagliandino ne ho pagati 28 e rotti. No, e allora, c'era scritto nella multa già scontata. Allora, il caso è diverso. Un conto è non aver pagato assolutamente. Cioè, sono arrivato, non ho esposto nulla e me ne sono andato. Allora, la sanzione è di 41 euro e il pagamento scontato è di 28,70. Invece, laddove ho superato il tempo, almeno, ripeto, questa è secondo la mia interpretazione, ma sappiamo che ce ne sono anche di diverse, allora scatta una sanzione da 25 a 99 euro, dove lo sconto è del 30% e corrisponde a 17,50 euro. Chiarissimo. Posso leggere un messaggio perché è di un ascoltatore a cui è capitata la mia stessa cosa? Roma, strisce blu, per me era Milano. Macchinette rotte, necessita cercarla nel frattempo, operatore passa, fa la multa, tu torni col biglietto orario precedente e poi quindi devi attivarti perché devi mandare la raccomandata, e questo, di tutto questo ci parlerà il dottor Scott. Dottore Scotti, capita anche questo? Certamente. Allora, guardate, è capitato anche a me personalmente di arrivare in un posteggio con una sola obliteratrice mettitrice di biglietti e non funzionava. Tra l'altro eravamo in gruppo e di conseguenza tutti si sono rivolti a me per sapere che cosa fare, perché ovviamente bisognava corrispondere la somma, ma non si poteva oggettivamente. A quel punto mi sono premunito, ho fotografato la macchina con il cellulare che non funzionava, che dava errore, non accettava. Dopodiché mi sono accertato di ricordarmi bene quali fossero gli amici con me e ci siamo allontanati. Devo dire che effettivamente non è stata sanzionata nessuna vettura, perché anche dovrebbe essere compito dell'agente, prima di sanzionare, verificare se effettivamente la macchinetta funziona. Come quando si dà una sanzione per divieto di sosta, generalmente la gente verifica che sia presente il cartello e che sia visibile, quindi dovrebbe essere un prerequisito. Ecco, nel caso invece, ammettiamo simile a quello che Nicoletta ci ha raccontato poco fa, si torna indietro con il bigliettino dell'avvenuto pagamento, ma nel frattempo l'ausiliario del traffico ha già fatto la multa e non ne vuol sentir parlare di cancellarla, anche perché credo che lui non possa farlo, se non ricordo male, forse ce l'ha già spiegato Scotti in un'altra occasione. Come si fa a contestarla in questo caso? Beh, dunque, innanzitutto l'ausiliario, dopo aver litigato in maniera furibonda al parcheggio, segnalare che c'è stato un errore di tipo formale e quindi in questo caso la sanzione viene senza dubbio annullata in autotutela. Viceversa, laddove invece l'ausiliario rimanga fermo sulle sue decisioni, allora si chiedono le generalità dell'ausiliario, il quale ovviamente è obbligato a declinarle, e con quelle generalità, e quindi avendo preso il contatto immediatamente, presentando anche la segnalazione che la macchina emettitrice non funzionava, si presenta a mio avviso un ricorso al prefetto, che è meno impegnativo rispetto a quello del giudice di pace, perché si può gestire tutto tramite una raccomandata. Te dimmi se uno deve arrivare fino al ricorso al prefetto per un errore che non è nostro. Per un errore e per una E poi vi racconterò della multa che mi ha dato Franco, il custode del mio palazzo. Davide, no, che ci chiama dalla provincia di Pisa, me l'ha consegnata, non me l'ha data. Davide, dalla provincia di Pisa. Davide, sì, buongiorno. Buongiorno. Lo sa che noi abbiamo i mercati, Davide? Sentiamo i mercati. Magnifico, Davide. Bravo, è forte, bravo, grazie. Tra poco. Cuore e denari. Sì, viaggiare. E noi viaggiamo verso Pisa, nella provincia di Pisa, perché c'è Davide che ci aspetta. Buongiorno Davide, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Ci dica tutto. Allora, condivido appieno quanto ci ha detto dal precedente ascoltatore al telefono. Che il mondo dei parcheggi è una giungla. Volevo aggiungere che appunto queste famose strisce blu, che sono stalli di 2 metri per 5, 10 metri quadri, che all'ente che gestisce il parcheggio fruttano in maniera esagerata. Sfido qualsiasi cittadino ad avere un immobile che ha una rendita del genere. Ma vabbè, a parte questo, voglio dire che ci troviamo con un parcheggio non custodito e che ha un costo del genere, insomma, si fa un po' fatica a riconoscerlo. Quindi, Davide, la morale della favola qual è nel suo caso? A questi costi, insomma, dovrebbero, per quanto possibile, almeno laddove possibile, dotarli di sistemi che determinino con precisione il tempo di sosta. Ecco. Ha ragione anche lei. Lui parlava addirittura, adesso non ce l'ha detto, vedo che era nelle anticipazioni, di un biglietto magnetico, ma ci sono anche altre molti soluzioni. Molti ascoltatori ci segnalano, ad esempio, Stefano da Twitter: a Biella c'è una splendida app smartphone per pagare parking blu a secondi, così è il top del servizio. C'è chi suggerisce ad esempio di comprare quelle schede a scalare, dottor Scotti, in modo che si paga quello che si consuma. Secondo lei quale potrebbe essere la soluzione ideale? Ecco, a mio avviso le società che gestiscono i parcheggi o i comuni o comunque tutti quanti gli interessati devono consentire al cittadino la più ampia possibilità di pagare, perché è dimostrato che se la facilità di pagamento aumentano anche i casi in cui viene corrisposto il dovuto. L'importante è dare la più ampia possibilità. Molte volte, per esempio, esistono degli emettitori che funzionano sulla moneta. Se uno deve fare una sosta troppo lunga non riesce a coprire interamente, dovrebbero anche accettare invece le banconote, dovrebbe esserci l'app, dovrebbe esserci la possibilità di pagarle con la carta di credito col banco. Lo smartphone, diciamo, ancora non è tanto diffuso, ma per esempio la macchinetta a scalare potrebbe essere un'opzione interessante. Insomma, già che è dura tirarli fuori questi soldi, almeno facilitateci, dottor Scotti, lei sta dicendo questo. Esatto, ma anche perché è proprio dimostrato da degli studi in materia, non ovviamente sui parcheggi, che quanto è più facile il pagamento, tanto più si ottiene il pagamento dalle persone. Sì. Vorrei sentire, se sei d'accordo, Nicoletta, Enrico da Pistoia, perché credo che abbia totalmente ragione sulla questione che solleva. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, i toscani stamattina alla grandissima. Sì. Complimentoni, Enrico. Vuole venire anche lei qua a vivere con me e Deborah. E vabbè, ora dai, ci faccia, no, ma veramente faccia un pensierino. Perché fate la trasmissione su temi anche abbastanza critici con un sorriso, e questo ci fa vivere la mattinata in modo migliore. Grazie. E per quanto riguarda il parcheggio, invece, io volevo far presente anche a dottor Scotti, se ho capito bene, anche giusto. Cosa per esempio a me mi riguarda in prima persona, ho subito un trapianto di pancreas, quindi spesso e volentieri io mi ritrovo ad andare a fare analisi eccetera, insomma, in strutture sanitarie dove bisogna purtroppo parcheggiare la macchina a pagamento sulle strisce. Ora purtroppo, ma non per colpa dei medici, ma a volte se arrivi alle 8 nelle strutture per fare dell'analisi e credi di uscire alle 9, 9:30, esci alle 3 di pomeriggio perché poi per vari motivi, urgenze eccetera, quindi e ti ritrovi la multa a parte anche, scusatemi se lo dico, la gabella di dover pagare l'extracomunitario di turno e che è 1 euro o 2 perché altrimenti ti trovi la macchina graffiata, ma questo lasciamo perdere. Ma in più anche il discorso che, perché una, fra parentesi, questi parcheggi si paga ma non sono per niente protetti, e quindi questo è un altro tipo, fra l'altro mi è stata anche sfondata la radio, la macchina e rubata davanti la radio all'ospedale? Sì, purtroppo. Sì. Quindi, però ecco, oltretutto, cioè, dico io, perché io sono dentro a fare dell'analisi, posso anche dimostrarlo. Certo, diciamo che un sindaco, un sindaco sa bene che magari quello è il parcheggio, mano sul cuore, però il parcheggio davanti all'ospedale magari possiamo disciplinarne il funzionamento in maniera diversa. Però pensa che Giovanni, non sappiamo da dove ci scriva, però scrive: sono un donatore, parcheggio, non pago, lascio scritto che sto donando, fino adesso mi è andata bene. Sono stato fortunato o ci sono delle agevolazioni? Non credo che ci siano agevolazioni per i donatori di sangue, il dottor Scotti può confermarmelo, ma infatti quello che solleva il problema del nostro ascoltatore, quindi parcheggi in prossimità di ospedali o di centri di analisi, insomma, un po' di buonsenso, Scotti, qua ci vorrebbe. Poi è chiaro che magari tutti quelli che abitano in prossimità potrebbero approfittarne, però diamo per scontata la buona fede quantomeno dei malati che hanno bisogno di questa assistenza. Senz'altro, teniamo però presente che anche esistono anche modalità di organizzazione dei parcheggi, per esempio anch'io sono donatore di sangue e quando vado a posteggiare, il posteggio, che è comunque su suolo pubblico, però è delimitato da delle sbarre, mm-hmm. e uno paga al termine, cioè quando prima ritira il biglietto, dopodiché prima dell'uscita paga, e quindi si possono mm-hmm. evitare questi problemi. Si può prevedere di poter integrare la tariffa entro un certo periodo di tempo, e quindi la persona ha una sorta di tempo cuscinetto per uscire, pagare e poi rientrare, cioè si possono prevedere. Quindi degli diciamo, la tecnologia ci può venire incontro, esatto. ma non è necessario che tutti si dotino di smartphone con le applicazioni. Una bella tradizionale sbarra da parcheggio, insomma, sarebbe la soluzione idonea. Certo, teniamo anche presente che comunque il fatto che ci sia una situazione particolare di una persona già sofferente e che quindi è rimasta per più tempo all'interno dell'ospedale per dei problemi sanitari può essere ovviamente apprezzata quale circostanza in sede di ricorso, e il tutto può venire correttamente archiviato. Quanto poi all'extra parcheggiatore a cui dover dare un euro, due euro per tutelarci l'auto, questo purtroppo è un altro problema, anche se però anche lì i sindaci un pochino potrebbero fare. Però Nicoletta, una cosa è certa, quando vediamo quel foglietto sul parabrezza ecco, ci viene un po', come si dice, il fottone, insomma, se sopra il fottone di rabbia. Lo dico sorridendo al nostro esperto che, come anticipato, ci aiuterà a capire come cambiamo quando siamo al volante e che cosa succede tra noi, il rapporto tra noi e la nostra macchina, noi, soprattutto voi uomini, è un rapporto molto particolare. Saluto il professor Paolo Cavedini, psichiatra e professore alla scuola di psichiatria all'Università di Firenze, che se la ride. No, buongiorno professore. Buongiorno a tutti, non sono esperto di multe, nel senso che non ne prendo così tante. Qualcuna l'avrà presa anche lei. Qualcuna sì, ma non lo diciamo. E ma lei come? Sarà, venuto, come dite voi nelle Marche, mi il fottone? 5 minuti. Ho sbroccato. È normale, professor Cavedini, è sano, sì. Anche se ci sentiamo un po' in colpe, forse ci arrabbiamo di più magari quando non abbiamo pagato e quando vediamo che abbiamo cercato di fare i furbi e non ci siamo riusciti, un doppio smacco. Professore. Sì, ho appena litigato con un automobilista che mi ha rubato il parcheggio qui sotto, per cui, come dire, nemo profeta in patria, no? Per cui è assolutamente così. È vero, la macchina è un po' la protesi della nostra virilità e della nostra onnipotenza e all'interno di questa specie di carro armato iperprotetto ci sentiamo assolutamente forti, e quindi questo poi causa tutta una serie di aspetti legati alle nostre azioni, certo. Al nostro carattere, insomma. Quindi se stamattina avete già litigato, magari siete l'automobilista che ha litigato con il nostro professor Cavedini che poi non ce lo lasciava salire su, e noi come facevamo? A cui chiedo pubblicamente scusa. Ma perché si è arrabbiato lei? Io mi sono arrabbiato, lui però si è preso il parcheggio quindi quando... E le chiede pure scusa, chi deve chiedere? No, vabbè, la rabbia allora. Lo fa mai bene, dai. Se vi siete arrabbiati, se qualcuno vi ha già mandato a quel paese proprio come automobilista, vale solo per chi è al volante, se a mandarvi al diavolo stamattina è stata vostra moglie, perché come sempre non uscivate dal bagno, non c'entra, non chiamateci, non scriveteci. Quindi è proprio dedicata all'automobilista. 800 24 00 24. Un automobilista che invece, come dire, ci piace ascoltare adesso è Augusto dalla provincia di Terni. Perché Augusto, lei che fa? Insomma, mi pare che sia un indomito della multa. Buongiorno. Ma diciamo questo, che per quanto riguarda i parcheggi sulle strisce blu, mi pare che c'è una normativa che dice che comunque laddove ci sono ci dovrebbero essere anche delle aree libere di parcheggio, e spesso e volentieri questo non accade, per cui credo che ci sia la possibilità di contestare anche in questo senso. Però vorrei fare un parallelismo con un caso completamente diverso, non so se me lo permettete, perché sì. È una cosa che comunque per me è risultata assurda, e vorrei capire come mai la legge italiana è così complessa e così... diciamo pericolosa per chi subisce questo tipo di multa. Cioè, a me è successo di ricevere una multa per eccesso di velocità su una strada statale, sì. E questa multa però io non l'ho mai vista materialmente, cioè sì. Non mi è mai arrivata per posta, sì. Mi sono visto arrivare la richiesta di 283 euro perché non avevo comunicato chi fosse alla guida in quel momento, sì. Per la decurtazione dei punti, e da lì sono risalito al fatto che esisteva una multa. Ha fatto ricorso al prefetto dicendo giustamente perché non aveva avuto una notifica regolare, cioè e non è che non volessi pagare la multa, non l'avevo proprio mai vista, mai ricevuta. La multa non solo mi è stata fatta pagare doppia, ma anche i 283 euro, cioè da 100 e pochi euro in più sono arrivato a 700 euro. Questa è stato il mamma mia. Ora, allora Augusto, guardi, vorrei capire per quale motivo. Lo sa che era un tema che avevo preparato con Silvio Scotti, in realtà non abbiamo moltissimo tempo, però magari in 40 secondi se riesco glielo faccio spiegare. Scotti, come avviene questa moltiplicazione dei pani e dei pesci? A parte il fatto che ad Augusto non aveva avuto una notifica e magari avrebbe potuto limitare notevolmente i danni, come fa a moltiplicare in questa misura? Bisogna verificare se il primo verbale è stato notificato nei termini dei 90 giorni. Lui dice di no. E che tipo, però la prefettura deve aver accertato questa cosa. Se non risulta dall'ordinanza prefettizia che è stata accertata la regolarità della notificazione, io consiglio di ricorrere al giudice di pace, perché viene annullato tutto il processo se manca la prima notificazione, no? Quindi questo è fondamentale. Perché si sale così tanto? Perché laddove si perde il ricorso il prefetto non applica più, e questo per effetto di legge, il minimo della sanzione, ma la metà del massimo della sanzione, che corrisponde a circa il doppio della cifra iniziale. Ecco che quindi si sale esponenzialmente. Allora, cosa consigliamo quindi ad Augusto per salutarci, Scotti, di andare avanti? Sei convinto di aver ragione, allora, di andare al giudice di pace? Se non ha contezza della notificazione, si rivolga al giudice di pace, perché ha una probabilità elevatissima di vedere archiviato tutto il procedimento. Per tutti gli altri casi scriveteci a cuoredenari@radio24.it. Silvio Scotti risponderà. Cuore e denari. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Come tu lo metti è bravo. Lo puoi incontrare ovunque. Al caffè, sotto ai piedi dell'attore. Recitare soldi e amore. Ci scrive Silvia, 49 anni, incredibile, quando guido sono intollerante, non ne avrei il motivo, potrei fornire i miei filmati per YouTube come imbranata. Professor Cavedini, è vero, quando siamo al volante diventiamo un'altra persona, lo stiamo sentendo da Dr. Jekyll a Mr. Hyde, le teorie a riguardo sono tante, lei ne ha anticipata qualcuna. Ma allora, tanto per cominciare, per inquadrare un po' il problema, diciamo che è vero che l'automobile è diventata protagonista assoluta della nostra vita, e quindi, come dire, attorno all'automobile ruotano una buona parte dei nostri comportamenti, delle nostre modalità di relazionarci con tutto quello che ci circonda, la strada, i pedoni, i ciclisti, gli altri automobilisti, via di questo passo. Se è vero che l'automobile ha dato forte spunto alla capacità di mobilità dell'uomo e quindi il conoscere nuovi spazi, accorciare le distanze, eccetera, dall'altra parte, lo anticipavo prima, ha dato un forte senso di onnipotenza, perché in qualche modo dentro all'auto ci sentiamo tutelati, possiamo come dire, coprire le distanze più velocemente, possiamo fare tante cose, e quindi in preda a questi istinti onnipotenti vengono fuori un po' tutte le latenze di noi, anche quelle più aggressive, no? Che normalmente nella vita di tutti i giorni cerchiamo un po' di inibire, e che invece in questo contesto protetto ci scateniamo, e qui poi i comportamenti sono i più disparati. E infatti si potrebbe dire: dimmi che cosa ti fa arrabbiare quando sei al volante, ti dirò chi sei, ad esempio chi ti frega il posto, professor Cavedini. Riusciamo a tratteggiare qualche profilo, professore? Ah, ce ne sono tanti, però proviamo a ragionare su due tipologie un po' tradizionali, che sono un po' i due poli opposti dello stesso meccanismo. Allora, da una parte abbiamo il classico automobilista preciso, ordinato, rispettosissimo del codice della strada, anche fin troppo, che non passa un semaforo giallo nemmeno se lo pagano, che prima di uscire dallo stop controlla che non ci siano all'orizzonte nessun tipo di autovettura, nemmeno lontano chilometri e chilometri, diremmo l'automobilista rispettoso e ligio. Peccato che poi queste modalità, a parte irritare gli altri, siano a volte anche un po' disfunzionali, perché in qualche modo non mette in atto questo individuo, come dire, un funzionamento rapido, solerte, efficace, come diremmo oggi. Questi però sono anche quei soggetti un po' così nella vita, un po' rigidi, un po' ipercontrollati, che sovrastimano un po' il rischio di tutto, che nascondono però un'aggressività molto latente, no? Perché in qualche modo sono le classiche persone che pensano che tutti quelli che stanno attorno a lui dovrebbero esattamente fare la stessa identica se senti comodo. E quindi il rischio è che quando esplodono seriamente. Come il giorno di ordinaria follia. Come il giorno di ordinaria follia. Perfetto, esattamente quello è il prototipo dell'individuo, spesso abitudinario, con tutta una serie di modalità. Dall'altra parte c'è un po' il polo opposto, un po' l'impulsivone, no? Sì. Quello che ti ruba i millesimi di secondo alla rotonda, quello che in qualche modo calcola in maniera assolutamente istintiva l'uscita dallo stop dove tu arrivi a, non dico a frenare, ma a un millimetro dalla macchina dell'altro. Sono quelle persone molto più impulsive, molto più istintive, che non elaborano razionalmente le cose, che tutto sommato sottostimano un po' il rischio. Non arrivano ad essere pericolose per sé o per gli altri, perché non sfociamo nella componente di impulsività patologica, però in qualche modo sono quelle persone che non si preoccupano di quelli che stanno attorno. In strada ci sono solo io, faccio quello che credo, mi comporto come voglio, rubo il parcheggio a quelli che mi passano davanti, tanto non mi pongo le regole sociali di buon funzionamento, e queste persone tendenzialmente sono sempre un pochino impulsivette anche nella vita di tutti i giorni. Quindi ai nostri ascoltatori chiediamo di riconoscersi in un profilo, di raccontarci che cosa gli fa arrabbiare. Se qualcuno lo sta facendo in questo momento, mi raccomando, 800 24 00 24, il classico furbo che vi ha fregato il parcheggio, o quelli che scendono per tenere il posto all'amico così che devi passare sul loro corpo per infilare poi la macchina, chiamateci e ci pensiamo noi. Ma professor Cavedini, le ore passate in macchina, immerse nel traffico e sotto tensione, pesano sul nostro benessere, lo trasformano in malessere, tanto che l'automobilista si incazza, ma soprattutto somatizza. Quali sono i disturbi più classici della persona che proprio accumula particolare stress quando è al volante, perché è di quel profilo che tende a trasformarsi? Allora, diciamo che in termini anche proporzionati al tempo che uno passa in macchina, certo. Perché un conto è usare la macchina per andare a fare la spesa e poi tornare a casa, un conto io sto in macchina mediamente 2 ore e mezza, 3 ore tutti i giorni tra una cosa e l'altra, quindi come me moltissima altra gente anche di più, è tutto in qualche modo più facile che irrompa nella mia psiche, nella mia tranquillità, e che generi attraverso l'ansia, attraverso lo stress tutta una serie di manifestazioni, le cosiddette manifestazioni tipo psicosomatico, no? Che sì. Sono delle sensazioni fisiche avvertite dall'individuo proprio come se fossero reali da un punto di vista oggettivo, quindi se è dolore è dolore, se è sensazione di fastidio altrettanto, ma che derivano non da un danno dell'organismo in sé, almeno inizialmente, ma dalle ripercussioni dello stress e dell'ansia sul nostro fisico, e colpiscono più o meno indistintamente ogni distretto corporeo, uomini e donne, diciamo mediamente a qualsiasi età, anche se più facilmente tra i 30 e i 50 anni, e che colpiscono, dicevo, più o meno qualsiasi distretto corporeo, anche se alcuni sono più coinvolti. Immaginiamoci il tratto gastroenterico, il colon irritabile, la gastrite, le tensioni muscolari, quindi i dolori alla cervicale piuttosto che la cefalea, no? Abbastanza frequente, alterazioni del ritmo del battito del cuore, a volte alcuni soggetti predisposti hanno anche un innalzamento del livello di pressione. Le cose da tenere in considerazione sono fondamentalmente due: uno, che spesso e volentieri a questo si associa anche un disagio psicologico abbastanza importante, no? Siamo sempre molto stanchi, abbiamo comunque un livello di tensione, di ansia che ci infastidisce, che poi si ripercuote anche nella vita di tutti i giorni. Scendiamo dalla macchina, andiamo al lavoro, torniamo a casa, siamo più nervosi anche per colpa di queste manifestazioni. E l'altra cosa da tenere in considerazione è che in soggetti predisposti può tendere a cronicizzarsi e quindi in qualche modo diventare un vero problema, un vero disturbo da somatizzazione, che poi richiede evidentemente accertamenti, terapie e percorsi di aiuto specifici. Quindi la manifestazione psicosomatica non va mai sottovalutata. Professor Cavedini, abbiamo Giovanni che ci chiama da Torino. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuto. È alla guida? Sì, sono alla guida e mi sono fermato adesso. Bravo. Per parlare con voi. Bravo, ha fatto un'ottima scelta. Allora, io chiamo da Torino, in questo momento qua sto andando verso Piacenza, sono sempre in giro con la macchina. Sì. E volevo intervenire per questo discorso qua di cosa può far arrabbiare per strada. Sì. È una cosa che mi fa arrabbiare tantissimo, non so se qualcun altro lo stesso. Quando ci sono le code al semaforo, normalmente non si aspetta il semaforo, e c'è sempre il furbetto che si mette sulla corsia per girare a sinistra e poi all'ultimo minuto si accorge che c'è la coda e mette la freccia e ti taglia la strada, che è una cosa molto diffusa. Questo è quello che manda il, come si dice, il sangue alla testa a Giovanni. Ne parliamo tra poco e voi continuate a chiamarci e a scriverci che cosa vi fa arrabbiare e come vi trasformate quando siete al volante. Adesso il nostro GR, torniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. Però devo confessare che le macchine che ho amato di più sono state le prime, la Cadet, interni in simil pelle, la Dian, carrozzeria in simil cartapesta, la Escort, color grigio, simil pantegana. E noi ci rimettiamo al volante insieme a me, a Deborah. Oggi c'è il professor Cavedini, dopo aver analizzato il reparto della questione multe, e adesso ci occupiamo di quello che ci fa arrabbiare quando siamo al volante. Ma molti di voi ci stanno scrivendo al 349-238-6666, abbiamo giocato un po' con dimmi che cosa ti fa arrabbiare, ti dirò chi sei, ma noi insieme al professor Cavedini, e così lo diciamo anche a voi se volete iniziare a prenotarvi, a parlare con noi, vorremmo anche affrontare, a proposito di auto, due altri temi. Il primo è il come tenete la vostra auto. Io quando avevo la macchina era molto vissuta, personalizzata, direi con un eufemismo, era una seconda casa, avevo biscotti, acqua, libri, le scarpe che dalla stagione prima dovevo portare a far risuolare, insomma c'era molto di me, anche troppo. Professor Cavedini, so che questo le darà delle suggerimenti per capire qualche cosa di me, ma se volete far capire qualcosa anche di voi, chiamateci. E il secondo aspetto che volevamo considerare era il rapporto molto stretto, quasi d'amore, che molti uomini hanno con la loro vettura. Il professor Cavedini aveva detto che l'automobile, ha detto che potrebbe essere considerata un prolungamento della virilità. Io non voglio addentrarmi su queste letture, vorrei solamente capire quanto, perché molti uomini tengono così bene la loro macchina, la lucidano, hanno paura del graffietto, non puoi mettere niente in disordine, come se fosse una fidanzata. Però, dato che poi mi aspetto che voi scriviate a me, a Deborah, ecco, siete sempre di parte, dato che agli uomini che si sentiranno chiamati in causa, chiediamo di trovare un parallelo femminile, qualcosa che le donne amino quanto gli uomini l'auto. Ce la fate? Ce lo dite? Deve essere un amore però con delle caratteristiche. 800 24 00 24. Quindi questo è un po' il menù dell'ultima parte della trasmissione. Potete parlare di arrabbiature, di amore, di come tenete la vostra auto. Il professor Cavedini da queste indicazioni ci racconterà qualcosa di noi, perché spesso come siamo in macchina racconta anche qualcosa di noi, di come siamo al lavoro, nel rapporto con gli amici, nel rapporto con le nostre fidanzate, col nostro partner. Professor Cavedini, intanto abbiamo Nino che ci chiama da Como e Franco da Bergamo, e poi ci sono tantissimi ascoltatori che ci stanno scrivendo che cosa li fa arrabbiare alla guida. Nino, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, buongiorno, qua. Signore. Buongiorno a lei, Nino, allora, benvenuto. Innanzitutto una notizia in tempo reale sulla Milano Meta, all'altezza dell'uscita di Cesano Maderno, c'è l'autovelox in funzione. Ecco. E questa. Il camioncino dei vigili parcheggiato nella solita area di servizio Kuwait in direzione Milano con il limite 80 all'ora. Ok, e questa l'abbiamo detta. Invece telefonavo per il discorso arrabbiatura in macchina. Sono un agente di commercio, uso la macchina spesso e volentieri. Sei in fila. Sì. Dall'altra parte qualcuno deve girare, deve attraversarti la strada per immettersi in una strada laterale. E molta gente, piuttosto che fermarsi 5 metri prima, impedisce la svolta, creando ulteriori problemi nella direzione opposta. È una cosa inconcepibile che purtroppo subisco, non dico quotidianamente, ma spesso. E cosa fa? Conta niente, fino a 10, fa finta di niente e manda giù. No, una volta a un tizio avevamo i finestrini aperti, ho detto semplicemente ha perso un'occasione per dimostrare la sua intelligenza, e la risposta è stata in linea con quanto pensassi, e mi ha detto cosa vuol dire, mi faccio che da lei. Beh, è stato corretto, professor Cavedini. Sono come dire quelle situazioni dove il rispetto reciproco viene decisamente meno, e in questo caso il nostro ascoltatore ha totalmente ragione ad arrabbiarsi, peccato che poi non cambia le abitudini delle altre persone. Forse in quel momento mantenere un po' più la tranquillità ci aiuta anche a non somatizzare, come dicevamo prima. Deborah, vogliamo leggere qualche messaggio dei allora, nostri naturalmente, ascoltatori? Non è mancato l'appello il nostro fante di picche Marco da Ferrara, che dice: mi fanno arrabbiare con gli automobilisti che aprono le porte senza guardare chi arriva. È vero Marco, ha ragione, però magari quelli stanno fermi e forse il danno è diverso rispetto a quelli che invece si muovono in maniera non tanto responsabile. Dico io quello che mi fa arrabbiare, lo dico al professor Cavedini, così: la mia macchina l'ho lavata qualche giorno fa e mi son detta c'era quella macchina lì sotto, però non è molto vissuta perché io svuoto tutto perché ho paura di qualcuno che me la apra la sera. Mi fanno arrabbiare, professore, quelli che in autostrada, quando io sono sulla corsia di sorpasso e vado alla velocità corretta, quella che mi è consentita, che mi cominciano a lampeggiare, che mi si appiccicano ad un millimetro e mi cominciano a lampeggiare, lì veramente mi va la mosca al naso, si dice, ma direi che mi arrabbio molto di più. Sono dei veri prepotenti. Mamma mia. La strada è mia e tutto quello che c'è davanti a me che non mi rispetta lo faccio fuori o comunque in qualche perché modo perché bisogna andare secondo questi qua a 170 non a 130 quant'è la velocità consentita, perché l'idea è che la strada sia in qualche modo lo spazio dove faccio quello che voglio. Adesso al di là del codice della strada che va sempre rispettato, c'è comunque la necessità di rispettare banalmente ad una rotonda quello che arriva e che non deve frenare perché io esco più rapidamente di quello che mi è consentito, piuttosto che anch'io non tollero queste persone in autostrada. Soprattutto poi quando lo fanno anche in corsia centrale, che non ne hanno neanche ragione. Mino scrive, mi fa ink, sempre anche in questo caso, chi entra nelle rotonde a tutta birra e non mette la freccia in uscita. Quello che lo stavamo dicendo prima, il codice della strada diventa un qualcosa da applicare o non applicare a seconda di quanto ci conviene in quel momento. Senti, andiamo a Nora da Teramo. Andiamo, volentieri. Buongiorno. Nora, buongiorno. Oh, buongiorno. Dalla bella Abruzzo. Per la trasmissione. Grazie a lei, Nora. Allora, io avevo un marito, no? Mi voleva bene. Sì. Amava la famiglia, non amava più la macchina. Amava più la macchina? E quindi come se ne prendeva cura, Nora? Che cosa faceva suo marito? Niente, mio marito lavorava nell'arma. Sì. E insomma, dentro la macchina non si poteva mangiare niente. Ah. Le scarpe pulite, e guai a chi ci fumava. E come si diverte, Nora? Guarda, anzi, poteva fare come me, che ci porto i nipoti dietro con le merende, non le dico che cosa succede, sempre dei picnic. No, prima che si entrasse in macchina, avete i piedi puliti, avete le scarpe pulite. Lo zerbino vai. Fuori dall'auto teneva suo marito. Sì. Infatti dopo, quando è morto, l'ha preso mio genero, no? E un signore dell'assicurazione gli ha detto: scusa, sa, ma questa macchina, perché i chilometri erano fatti, no? Dice: ma dove è stata? Prima cosa sempre in garage, ma poi io avevo un suocero che era qualcosa. Ci amava, ma mai se entravamo nella macchina sporca. Professor Cavedini. Grazie, Nora. Nora ci racconta una cosa che noi sorridiamo e ride anche lei, però è vero, ci sono proprio i maniaci e noi donne, ci sono donne che hanno la mania delle pattine, che quando entra qualcuno in casa ti fanno mettere quelle, è più o meno una cosa del credo genere. Che il problema sia che poi dopo bisogna pulire in casa se qualcuno sporca, invece la macchina un po' il concetto della proprietà, me la accudisco, me la coccolo, me la vizio un po' come voglio e guai a chi si permette in qualche modo di entrarci senza rispettare le mie regole, perché io sono il padrone, il proprietario di quella macchina, quindi il regolamento di ingresso è divertentissimo, i piedi puliti, non si mangia, non si fuma, bisogna essere seduti composti. Vabbè, però posso dire, quando l'ho lavata qualche settimana fa ed era in tonza come non la vedevo da tempo, poi sono entrata in macchina con degli amici, quando ho visto quello sporco sul tappetino mi sono un po' innervosita anch'io, po' però sì. Mi è passata in 3 secondi, diciamo. Andiamo a Como, c'è sì. Fabio 800240024. Buongiorno Fabio. Buongiorno a voi. Io mi sono permesso di telefonare perché mi sono sentito tirato in causa immediatamente per la storia dell'auto. Sì. Perché stamattina ne ho proprio lavate due, la mia e quella di mia moglie. Ecco, bravo. Quando vuole venire Fabio da noi ci dica, perché gliela consegniamo molto volentieri. No, però volevo sottolineare solo questa analogia. Io entro in casa, per me la casa ovviamente è solamente la casa, e mia moglie la tiene in una maniera idilliaca, proprio si alza alle 6 del mattino e fa i disastri per tenerla pulita, e dalla macchina se ne sbatte altamente le scatole. Esatto, come faccio io, Fabio? La macchina internamente, perché poi non mi interessa, internamente quando arrivo a casa è così. Credo che sia una compensazione comunque, voi uomini, noi uomini con le auto e voi donne con la casa, insomma. Solo questo, voglio sottolineare questa cosa. Grazie, grazie Fabio. Però Fabio è stato carino perché ha portato anche a lavare la macchina della moglie. Professor Cavedini, ritorno un po' a questo aspetto un po' maniacale che alcuni di noi, vuoi con la casa, vuoi con la macchina, abbiamo. Sorridevo sulla telefonata di prima perché io lavavo la macchina di mia moglie, poi ho smesso un pochino, un po' alla volta. Quando però non trovo qualcosa lo cerco in macchina di mia moglie quasi facilmente. È facile, cioè, che lo possa quindi trovare. Quindi non la lava più per quello, perché custodisce, perché tante diventa cose molto più utile così che non ripulirla ogni volta. E quindi da questa cosa era sì, c'è la maniacalità, l'attenzione, come dicevamo prima, un po' la meticolosità con la quale direi prevalentemente gli uomini, no? Nel senso, hanno questa attitudine a pulirla quasi come se fosse un po' l'espressione del proprio potere, della propria forza. Le donne tendono a non lavarla, tendono a non pulirla, perché in qualche modo lo considerano qualcosa di inutile, non è così, molto più concentrati sull'utilità della macchina che non sull'aspetto estetico, o piuttosto sulla potenza, sulla forza, eccetera. Quindi pulire la macchina per una donna spesso e volentieri è considerato, certo, una... Quindi siamo diverse anche in, esatto, questo. Esatto, però mando un messaggio alle mie colleghe donne: magari lavatela una volta di meno, ma l'importante è che mettiate costantemente l'olio nel motore e non fate quel danno là, insomma, poi per pulirla viene sempre in tempo. Andiamo a Bergamo da Franco. Andiamo. Apriamo e chiudiamo la parentesi. Franco, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cosa ha combinato lei con l'auto? Niente di particolare, ma forse c'è qualcosa di patologico, nel senso che quando sono in autostrada non mi piace avere delle macchine davanti, vorrei il paesaggio libero e potermi guardare l'orizzonte come al cinema. Si faccia un bel viaggio lungo l'autostrada, la 14 con me, Franco, d'estate, veda che questo suo sogno non lo potrà realizzare neanche. E comunque mi dà fastidio un'auto davanti che tendenzialmente mi impedisce di avere la velocità che desidero o che mi rallenta, e quindi cerco di togliermi le auto davanti. E quindi inizia a mette il piede sull'acceleratore. Pur entrando nei limiti, possibilmente, però c'è proprio questa sorta di fastidio in chi mi precede, perché in qualche modo mi insomma la disturbano. Sì, mi disturba molto. Un'altra cosa invece che ho notato è che nessuno mette la freccia, non la mette più nessuno, e questo è un grave disagio, perché quando sei in città soprattutto. Franco, abbiamo perso la freccia e i congiuntivi. Dopo devo raccontarne una sulla freccia. Professor Cavedini, insomma, Franco un po', insomma, gli dà fastidio avere qualcuno davanti. Un fastidio non è per forza una forma patologica, quindi in qualche modo poi lui non evita di andare in macchina comunque, quindi, come dire, è tutto sotto controllo. Però di fatto tante volte molte persone hanno questo senso un po' di tipo claustrofobico, cioè la chiusura degli spazi davanti, piuttosto che il camion che ci sorpassa, piuttosto che il guidare in galleria, ad esempio, no? La sensazione che non arrivi la fine, e questi, come dire, sono meccanismi che predispongono a degli stati d'ansia, ecco, in generale. Poi bisogna vedere il grado di interferenza con il funzionamento. C'è gente che per questo non guida nemmeno più, insomma, però non Dedicheremo poi una puntata alle paure che noi ci fanno evitare dal fare le cose. Infatti molte persone, come il professor Cavedini sottolineava, proprio hanno avuto un grande spavento al volante e hanno smesso e questo proprio comporta anche una grossa perdita di autonomia, no? Lorenzo, buongiorno da Milano, e Davide dalla provincia di Milano. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Il mio rapporto sull'auto, nel senso che l'auto mi ha influenzato molto la vita, anche gli studi, ma l'unica auto che abbia mai comprato è una Spider inglese del 68. Caspita. Comprata a 28 anni nell'88 con gli ultimi soldi da ufficiale dell'esercito, per il resto della vita, tutte normali auto aziendali. Per quanto mi dà fastidio in auto, assolutamente niente, cioè non mi lascio, vivo molto in auto per lavoro e anche per viaggi, ma non mi lascio, secondo me, è sbagliatissimo a farsi influenzare nello stato d'animo della guida altrui. Bravo Lorenzo. È pericoloso, si perde lucidità, si perde l'auto può essere molto pericolosa, per cui la naturale tendenza è stare attenti agli altri, aspettarsi che rispettano le regole, ma aspettarsi anche che a volte non possono rispettarle, per cui prevedere certi comportamenti e prudenza e prontezza. Insomma, un grande esercizio zen. Lorenzo, lei è veramente un grande saggio, ma dalla telefonata di Lorenzo io ne approfitto per chiedere al professor Cavedini, tutti noi lo vediamo anche dai messaggi che stanno arrivando, sono tantissimi, e ci arrabbiamo quando siamo al volante, qualcuno ti taglia la strada, ti fregano il posto eccetera, però ci sono dei momenti in cui noi dobbiamo capire che stiamo un po' sorpassando i limiti, e quindi per questo noi dicevamo attenzione, quello che capita in macchina, le emozioni che proviamo possono darci delle indicazioni riguardo al la nostra, no, modo in cui stiamo attraversando magari un periodo della vita, insomma ci dovrebbero essere dei segnali che ci avvertono che ce la stiamo prendendo troppo, e non può essere colpa del pedone o della persona che in macchina prima di noi sta andando troppo piano. Professor Cavedini. Beh, qui siamo un po' nella situazione in cui le situazioni esterne poi si amplificano in macchina, no? Quindi ci portiamo dietro un disagio, ci portiamo dietro delle difficoltà personali per vari motivi, e poi la macchina diventa un po' l'amplificatore, no? Il faro puntato sulle nostre tensioni, e lì è più facile che emergano, che vengano slatentizzate. I segnali sono più o meno sempre gli stessi, sì. Allora, i sintomi fisici, le somatizzazioni di cui parlavamo, ci sono. Assolutamente sì. La distraibilità, quindi quando uno è molto distratto alla guida, e lo è al di là del bene e del male, voglio dire, un po' di distrazione può capitare a tutti, non dovrebbe, ma succede, ma ci sono persone francamente distratte che non vedono un semaforo, che non si rendono conto di una precedenza. Allora in quel caso un minimo di riflessione, se siamo stanchi ed è una questione, se siamo particolarmente preoccupati, quindi abbiamo delle tensioni che in qualche modo distraggono i nostri pensieri dall'attenzione alla guida e si spostano in altre situazioni. Anche perché adesso telefoniamo moltissimo quando guidiamo, non abbiamo toccato questo aspetto che in realtà è molto serio, certo. E quindi per non parlare di quando invece lo si prende addirittura in mano, si cerca di rispondere ad un SMS. Circola in questi giorni sul web anche un filmato sui danni che chiaramente può comportare un atteggiamento di questo tipo, quindi pensiamoci. Cara Nicoletta, tu invece vai a piedi, quindi fai SMS, ormai in serenità. Allora, non so se abbiamo tempo, forse sì. No, forse sì, per Davide dalla provincia di Milano. Davide, buongiorno. Telegrafico. Buongiorno a tutti, sarò telegrafico. Io non sopporto l'arroganza in macchina, cioè tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo non dare una precedenza, commettere un errore, diciamo, però basta alzare la manina. Bravo! Basta dire, sì. Mi spiace. Mi scusi, cioè, sì. Io quante volte, io giro molto in macchina per la provincia, in città, a Milano, quindi capirete che è abbastanza complicato perché la provincia di Milano, la città di Milano, eccetera, ma questo vale anche in una landa sperduta nel Trentino, questo ragionamento. Bisogna chiedere scusa, sì. Tutti possiamo sbagliare, ad esempio anche quando non si dà la precedenza ai pedoni, ma sembra che la strada sia nostra, no? Bravo pedoni... Davide, io devo salutarla, chiudiamo con questo messaggio di Davide che aiuta tutti. Grazie a Davide per il suo contributo. Professor Cavedini, grazie a lei. Grazie molte. Grazie. E quindi attenzione al telefono, alle strisce pedonali, ai ciclisti, pure voi state attenti a chi guida. Abbiamo Pietro Lacorte oggi. Davvero? Sì, in regia, la parte tecnica. Laura Vanossi e Marco Lombardo in assistenza nostra quotidiana, e noi ci sentiamo domani. Buona Buongiorno. Giornata. Cuore e denari.